103. Spaghetti da Quaresima. Molti, leggendo questa ricetta, esclameranno: «Oh, che minestra ridicola!» Eppure a me non dispiace. Si usa in Romagna e se lo servirete a dei giovanetti sarete quasi certi del loro aggradimento. Pestate le noci framezzo a pan grattato. Uniteci dello zucchero a velo e l'odore delle spezie e levati asciutti gli spaghetti dall'acqua, conditeli prima con olio e pepe, poi con questo pesto a buona misura. Per grammi 400 di spaghetti, che possono bastare per 5 persone, noci sgusciate grammi 60, pan grattato grammi 60, zucchero bianco a velo grammi 30, spezie fini, un cucchiaino colmo.